anche i legami delinea lo spazio fuori e i dettagli è la vita e vedrai non saranno vuoti tutti i tuoi perché che linda dirai ammirando quella linea che rida ci proverai ma senza mira resterai così senza buona sorte senza alcun perché soffierò su tutte le tue bue ti darò la caramella che ti piace non sarà un problema se dopo poco me ne vado e non torno più Bye, I say goodbye. Bye, bye, I say goodbye, my love. Bye, bye, I say goodbye. I say goodbye, my love. Respira, non mi mettere pressione. Realizza che era solo un'emozione. Guarda me.